Effetto Mondo. I want you to know that you matter. I want you to know that your lives matter, that your dreams matter. And when I go home and I look at the faces of my daughters, Sasha and Malia, and I look at my nephews and nieces, I see limitless potential that deserves to flourish and thrive. Sulle parole di niente proprio di meno che Obama, saluto Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao, buongiorno. Sì, ieri ha fatto questo intervento che è durato 15 minuti circa dal suo computer di casa e in questa parte dice: vorrei rivolgermi soprattutto a tutti i giovani, ha detto le persone di colore, nel senso non intendendo i neri, perché non si dice più di colore per intendere i neri, ma quindi non solo African Americans ma anche Latinos e tutte le sfumature, insomma, che ci possono essere, e dice le vostre vite importano. Matter. E poi fa un riferimento personale alle sue figlie che sono Sasha e Malia, le ricordiamo alla Casa Bianca, e dice: quando vedo loro, vedo anche i miei nipoti, penso che abbiano davanti un futuro limitless, senza, con possibilità illimitate. Naturalmente Obama poi parla anche del fatto che ai giovani afroamericani in particolare è soprattutto negato l'accesso a un'istruzione come si deve, che naturalmente le sue figlie invece hanno avuto, ed è per questo che è impegnato con la sua fondazione. Non ha attaccato direttamente Trump, però naturalmente tra le righe c'era tutto il disappunto per come si sta gestendo la crisi di questi giorni. Dal punto di vista, sì, vai Giulia. Che è su tutti i quotidiani americani, anche perché c'è questa, ieri ha fatto molto effetto questa presa di posizione dell'attuale capo del Pentagono. Il Pentagono è la sede del Ministero della Difesa, quindi è l'equivalente del Ministro della Difesa nostro, e che ha detto: io non ho assolutamente dato il mio ok all'utilizzo dell'esercito che Trump ha più volte invocato per sedare queste manifestazioni, quindi non sono d'accordo. Tra l'altro lì c'è una questione legale molto complicata, perché non sarebbe così facile passare dall'annuncio ai fatti, e però questo è su tutti le prime pagine dei giornali, perché uno scontro così all'interno dell'amministrazione, in un momento in cui naturalmente il segretario della difesa ha un ruolo importante, non si era visto negli ultimi mesi. Trump, sappiamo, ne ha licenziati tanti di suoi ministri, ma uno scontro così grave fa molto effetto. Vogliamo sentire allora la voce dell'ex, credo, capo del Pentagono? Questo invece ha proprio pubblicato uno statement l'ex capo del Pentagono Mattis, che tra l'altro era entrato anche, era nell'amministrazione Obama e poi era il predecessore dell'attuale segretario alla difesa, licenziato da Donald Trump, che lo chiama adesso Mad Dog, cane pazzo. E ieri ha fatto questo statement che un giornalista ha letto ieri in tutti i telegiornali. Ne sentiamo un breve brano, sono parole durissime. Donald Trump, says General Mattis, is the first president in my lifetime who does not try to unite the American people, does not even pretend to try. Instead, he tries to divide us. Ecco, dice, è la prima volta, insomma, è un generale, tra l'altro è un ex generale dei Marines, quindi non esattamente, insomma, una persona senza un curriculum di peso, al contrario, e dice: nella mia vita non ho mai visto un presidente che riuscisse così, anzi volesse proprio, intendesse dividere il nostro paese. Ci sta riuscendo, negli ultimi 3 anni abbiamo visto un'escalation di questo, e naturalmente secondo lui è la strada sbagliata, perché in questo momento, lo dicevamo anche ieri, tanti editorialisti si chiedono come si possa trovare una leadership. Il tema l'ha toccato anche Obama, ha detto: io mi fido molto di voi giovani, però a questo punto capisco che dobbiate avere, con questo senso di giustizia che state dimostrando, persone di tutte le età, ragazzi di tutte le età, di tutti, appunto, i colori, che stiate cercando una guida, che in questo momento non c'è. Ed è un piccolo, se vogliamo, anche un riferimento al fatto che Joe Biden sicuramente è persona diversa da Donald Trump, però non ha quella pill da leader che sarebbe necessaria in questo momento. Ci segnali, Giulia, un curioso reportage del New York Times, poi veniamo all'Europa, su Venezia. Sì, è molto... mi ha con la prima pagina ed è intitolato così: Picture Venice bustling again, not with tourists but with Italians. Quindi immaginatevi Venezia di nuovo spumeggiante, ma non piena di turisti, ma piena di italiani. E il reportage da Venezia, della giornalista del New York Times, spiega che nella post-pandemic Venice, naturalmente i turisti non hanno ancora avuto possibilità, presto l'avranno, credo, di tornare in città, e quindi tanti italiani hanno approfittato per, soprattutto in questi ultimi giorni, soprattutto anche dal Veneto, dove comunque magari, come spesso succede con le perle che abbiamo vicino, ce le dimentichiamo un po', e quindi insomma è tornato un po' il turismo interno, che forse racconta, almeno l'impressione di questa giornalista, che è un turismo un po' più educato e rispettoso di quello, diciamo, delle navi da crociera, perché insomma cerchiamo di, forse apprezziamo, ripeto, in questo periodo forse apprezziamo di più, e lo faremo credo anche quest'estate, tutte le meraviglie del nostro paese. Intanto la Banca Centrale Europea, è uscito proprio adesso il flash, ha rilanciato il proprio piano di acquisto di titoli del debito per l'emergenza pandemica, altri 600 miliardi di euro, a un totale di 1.350 miliardi di euro, tassi invariati. Avremo modo in giornata di commentare questa notizia. Giulia, che altro oggi invece dalla tua rassegna internazionale in Europa, per esempio? Sì, venendo in Europa, colpisce molto che queste proteste che hanno avuto origine, lo sappiamo, dall'uccisione da parte della polizia di George Floyd, si stanno spostando anche in Europa. In particolare i giornali francesi, e Libération dedica la copertina a questo, dice il secondo stato di emergenza, perché anche in Francia ci sono tante disuguaglianze sociali, e sappiamo che la Francia è storicamente, anche per i legami che ancora affondano le radici nei tempi coloniali, ha avuto molta immigrazione, specie dal Nord Africa, però queste minoranze non sono integrate, e sta esplodendo la rabbia. Ieri 20.000 persone a Parigi, ma anche in tante altre città, e anche insomma tutti i giornali parlano di queste manifestazioni, ma anche dicono: guardate che anche noi dobbiamo cercare di affrontare il problema prima che sfugga di mano. Persino in Scozia, la copertina, la prima pagina del Scotsman fa vedere queste manifestazioni che ci sono state in alcune città della Scozia, con le persone inginocchiate per ricordare insomma quella posizione che abbiamo visto, ma anche insomma inginocchiarsi è sempre un segno di rispetto. Purtroppo era inginocchiato anche il poliziotto, era inginocchiato sul collo di George Floyd quando è morto. Tra Sappiamo, l'altro è sì. arrivato un alert della CNN che dall'autopsia è risultato che George Floyd aveva anche il coronavirus. Probabilmente non lo sapeva neanche, perché forse non aveva ancora sintomi gravi, però aveva anche il coronavirus. Dalla Germania invece ti segnalo, hai parlato di centinaia di miliardi, in Germania la Frankfurter Allgemeine Zeitung ha addirittura rifatto la sua prima pagina ieri sera, perché dopo due giorni di negoziati c'è questo piano, un secondo piano che Molto ha messo grande, d'accordo sì. tutta la grosse coalizione, 130 miliardi. Che aumenta il bonus per i bambini, sospende l'IVA per una serie di prodotti fino alla fine dell'anno, insomma tanti, e tra l'altro stanzia anche dei soldi per i comuni, perché come in tutti gli stati federali e come del resto succede in Italia, le amministrazioni locali sono molto in difficoltà per via delle mancate entrate, e quindi con dei bilanci in sofferenza. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie Giulia, ci risentiamo domani per l'ultima puntata della settimana con te. È tutto per oggi, con Valeria Bernardi in regia, Elisabetta Fusconi in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione. Da Alessio Maurizi l'auguro di una buona giornata, ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento.